Si accumulano, rimangono indietro fino a cominciare a ritardare in maniera patologica i pagamenti e diventare morosi. Questo capita a qualche famiglia. L'autorità per l'energia... Mi piace patologica, vedi? Cuore denari, d'altronde lo sai che trova ogni giorno dei fil rouge. Fisiologico, patologico. Io sono fisiologico. In questo mondo digitale non trovo un filo logico. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E su sei sempre il più, e giù sei un uomo in più, e su sei sempre tu, e giù non ci sei più. Va su e giù il nostro umore, la nostra salute, talvolta il nostro conto in banca, quanto oscilla, ma anche gli indici di borsa, i tassi di interesse vanno su e giù. Questi in particolare, ultimamente, a quanto pare vanno solo giù. Ed è un valido motivo per tornare a parlarne qui a Cuore e Denari. Noi ci concentriamo, però questa volta, non sui tassi di interesse dei bot o dei titoli di Stato. Ci concentriamo sui mutui nella prima parte del nostro programma, per capire se anche le rate mensili sono destinate ad andare sempre più in giù, così come sembra andare sempre più in giù l'Euribor, il tasso interbancario più conosciuto, il tasso di riferimento utilizzato dalle banche per calcolare anche le rate del mutuo. L'Euribor a tre mesi, proprio nei giorni scorsi, è scesa addirittura sotto zero. Non accadeva dal 98, se non ricordo male, da quando l'agenzia Bloomberg praticamente calcola e monitora questo tasso. Questo sta facendo venire voglia a molti non solo di chiedere un mutuo in questo momento, perché naturalmente sono in questo frangente i mutui molto convenienti, ma anche di rinegoziarlo o addirittura di chiedere una surroga. Voi siete tra questi, allora oggi ci prendiamo del tempo per voi, per rispondere alle vostre domande. Come vi sta facendo interrogare questo nuovo scenario sui tassi di interesse inedito che si sta manifestando in questo periodo? Iniziate pure a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24. Fra un po' vi presento gli ospiti con i quali approfondiremo questo aspetto, e poi vi anticipo già quello che invece è il tema che approfondiremo nella seconda parte di Cuore e Denari. È maledetta primavera che con i suoi sbalzi di temperature e passaggi repentini da giornate belle calde e soleggiate in cui verrebbe voglia di stendersi al parco e organizzare un picnic, passa invece subito a vento forte, pioggia battente, proprio come è successo in questi giorni in tutta Italia. Meteoropatia a parte, perché il tempo, lo sappiamo, influenza e condiziona il nostro benessere, aprile è un mese dell'anno in cui tutti i nodi vengono al pettine. Abbiamo mesi di lavoro sulle spalle, siamo stanchi, ma le vacanze sono ancora molto lontane, così si avvertono tutti quei segnali che vanno dalla stanchezza fisica, alla mancanza di energia, alla difficoltà di concentrarsi e a riposare bene, che siamo soliti etichettare con la crisi di cambio stagione, quella dell'armadio praticamente. Allora, vi riconoscete in tutti questi sintomi, in questa descrizione? Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, ma voi anche su questo tema iniziate a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24, oppure subito cominciate ad inviarci degli sms al 349 238 6666. Ebbene sì, non sappiamo se si sia fatto male o meno, ma è caduto giù anche l'Euribor a tre mesi, il tasso di riferimento più noto per noi, calcolato sulla media dei tassi delle transazioni finanziarie in euro tra le banche europee. Insomma, una definizione un po' complicata per in realtà tornarvi a parlare di questo parametro che è molto utilizzato anche dalle banche italiane proprio per calcolare, per costruire i mutui a tasso variabile. Questo Euribor, quello a tre mesi, per le scadenze ancora più brevi era già successo, è sceso nelle scorse settimane per la prima volta nella storia in territorio negativo. Ne abbiamo già parlato, lo ricorderete, giovedì scorso nel nostro spazio di Investire Informati, spiegando questo movimento e che cosa sia successo praticamente. Nella sostanza, lo ricorderete, trae origine questa discesa in larga parte dalle scelte della Banca Centrale Europea. Però noi oggi facciamo un passo in più, affrontando una delle conseguenze più concrete dei movimenti aumenti di questi tassi, ovvero le rate dei nostri mutui. Stimoliamo subito allora l'attenzione dei nostri ascoltatori invitandovi a chiamare all'800 24 00 24. Intanto, alla luce anche di questi tassi di mercato molto bassi e quindi molto convenienti, siete sul punto di chiedere un mutuo? Avete pensato che sia il momento giusto per farlo? Oppure state già pagando un mutuo, magari sottoscritto qualche anno fa, e queste notizie sui tassi bassi vi stanno facendo venire in mente la possibilità di o andare a battere cassa dal direttore di banca e chiedere di rinegoziarlo, oppure state facendo qualche confronto di mercato e state pensando ad una surroga o addirittura ad una sostituzione? Fateci tutte le vostre domande anche al 349-238-6666, oppure andate sui nostri social network, li potete raggiungere anche andando sulla pagina di Cuore Denari del nostro sito www.radio24.it. Chi ci aiuta oggi? Intanto un gradito ritorno, quello di Anna Vizzeri dell'Ufficio Studi Economico-Giuridici di Altro Consumo. Ben ritrovata, dottoressa Vizzeri, buongiorno. Buongiorno, grazie. E buongiorno anche, grazie per il suo intervento, a Carmine Paolo Antonio, direttore marketing di Cariparma Credit Agricole, benvenuto. Buongiorno, grazie. Perché immaginiamo che in questi giorni sia gli sportelli delle associazioni dei consumatori che quelli delle banche siano abbastanza frequentati da persone che si stanno facendo proprio le domande che noi abbiamo fatto ai nostri ascoltatori. Pertanto voglio fare proprio un primo round, un primo giro di domande tra Anna Vizzeri e Carmine Paolo Antonio per capire che cosa stanno notando dai rispettivi punti di vista, dai differenti punti di vista che hanno rispetto al mondo dei mutui. Peraltro io ho qualche dato proprio di pochi giorni fa della Banca d'Italia, dati che parlano di una nuova accelerazione, c'è un aumento del 24% nell'ultimo trimestre del 2014 rispetto al 2013 sulle richieste di erogazioni di mutui, mentre per l'ABI le nuove erogazioni per l'acquisto di casa hanno fatto registrare nel primo trimestre di quest'anno una crescita su base annua del 42%, quindi cifre sicuramente consistenti, significative, che meritano un'analisi approfondita. Allora, Anna Vizza, ricominciamo un po' con le associazioni dei consumatori. Cosa chiedono in questo momento i vostri utenti? Che dubbi hanno? Allora, dunque, sicuramente nel nostro osservatorio la parte da leone, diciamo così, le domande più frequenti sono quelle che riguardano la surroga del mutuo, quindi la possibilità di cambiare le condizioni dei finanziamenti approfittando dei tassi di mercato, dei tassi offerti dalle banche che sono effettivamente molto convenienti, mentre continuano purtroppo un po' di lamentele lato nuove erogazioni di finanziamenti, quindi nuovi mutui anche per l'acquisto dell'abitazione principale, perché ci sono ancora, diciamo così, delle limitazioni che rendono difficile anche a persone che hanno un contratto a tempo indeterminato l'accesso al credito, per cui ci sono per esempio richieste di garanzie oppure delle percentuali di erogazione rispetto al valore di perizia della casa che in alcuni casi non superano il 60%. Abbiamo anche delle banche che chiedono un rapporto rata reddito del 20%, quindi è molto più basso rispetto al 33% di qualche tempo fa, quindi continuano ancora questi problemi lato nuove erogazioni, però certo. Sicuramente è diventato molto più facile, quindi le domande sono molto frequenti per quanto riguarda il cambiare mutuo e la surroga del finanziamento. Interessante questo aspetto, nonostante abbiamo una condizione di mercato apparentemente molto favorevole, in realtà per le banche non c'è ancora tutto questo grande ritorno ad una elasticità nell'erogazione del mutuo. Devo dire anche che Anna Vizzeri lo sa bene, magari Paolo Antonio ce lo potrà confermare, abbiamo anche una condizione europea, questa nuova vigilanza europea che impone alle banche anche di essere molto più stringenti anche nell'erogazione del credito, perché devono avere dei requisiti patrimoniali oggi certamente molto più stringenti rispetto al passato, per cui non è una questione di cattiveria o di dire insomma no, diciamo no agli italiani perché c'è la crisi, ci sono anche delle situazioni esterne a noi delle quali bisogna prendere atto. Paolo Antonio, è così? Magari lei me lo può confermare. E per quello che riguarda invece i vostri sportelli, notate un aumento delle richieste per l'accensione di mutui nuovi e invece per le surroghe come sta andando? Vi chiedono anche di rinegoziare, cambiare le condizioni, insomma quali sono i dilemmi che attanagliano in questo momento i direttori delle vostre filiali? Allora, diciamo che dal nostro osservatorio noi stiamo continuando a erogare finanziamenti, lo facevamo nei periodi bui della crisi del 2008, continuiamo a erogare finanziamenti alle famiglie e anche alle imprese. tant'è vero che il 2015 si è aperto con un significativo incremento della domanda di mutui rispetto al 2014 presso i nostri sportelli, un più 75%. Là. Quindi significa che il lavoro che stiamo facendo di comunicare alle famiglie italiane che Cari Parma c'è nei momenti importanti della vita sta funzionando, e anche la quota di mercato della domanda è cresciuta in maniera sensibile rispetto alla fine del 2014. Siamo passati da un 6% a un quasi 9%, quindi in realtà il trend è sicuramente importante, è un trend che è un misto di nuove richieste, quindi per nuovi acquisti di immobili, ma anche di surroghe, quindi è un fenomeno molto effervescente, dobbiamo dire, bella, in questo momento. Una bella vivacità naturalmente. Allora andiamo un po' proprio ad affrontare, Paolo Antonio, ricomincio con lei, questo scenario di tassi di interesse bassissimi per l'Euribor a tre mesi, una condizione negativa, come dicevamo, che ha portato per tutti i fortunati, lungimiranti o anche chi obbligatoriamente aveva chiesto il mutuo a tasso variabile qualche anno fa perché magari il fisso aveva delle condizioni più alte, la banca non lo aveva erogato, perché è successo anche questo, in molti casi in questo momento sta vivendo veramente una situazione idilliaca con il mercato, perché le rate sono scese ai minimi storici. Ci dà un'idea delle cifre a cui possiamo trovare però un mutuo nuovo in questo momento? Facciamo un esempio, ammettendo che io abbia necessità di avere da voi 100.000 euro, no? Un mutuo, diciamo, di durata ventennale, che tipo di tasso posso spuntare? Mi può fare un piccolo preventivo al volo, Paolo Antonio, tra un fisso e un variabile? Insomma, che cosa mi offrite in questo momento? Ci provo. Grazie. Allora, diciamo che sicuramente bisogna guardare anche la percentuale necessaria per l'acquisto dell'immobile, quindi oggi ci sono delle condizioni su LTV, quindi loan to value, valori percentuali rispetto al valore dell'immobile bassi, molto interessanti. Però ammettiamo, diciamo, che ci sia la miglior condizione possibile, esatto, che il mutuo sia al 50% del valore della casa, che la casa sia di 200.000 euro, concentriamoci proprio solo sul mutuo, Paolo Antonio. Al 50% possiamo dire che mediamente sul mercato abbiamo delle rate tra i 480 e i 500 euro. Se andiamo sul tasso fisso si alza leggermente tra i 5,30 e i 5,40, quindi in questo momento se dovessi valutare un'ipotesi di rata, prendere in considerazione il fisso, non fosse altro per la stabilità nel tempo. Esatto, certamente il variabile è conveniente in questo momento, non c'è una differenza di convenienza così drastica come abbiamo visto anche negli anni passati rispetto ad una rata che si forma con un tasso fisso. Detto questo, però, dobbiamo ben sapere che se lo apriamo oggi un mutuo con un tasso variabile, i tassi, magari non domani, lo dico mille volte al giorno, non dopodomani, non succederà nel giro di un anno, ma nel giro di qualche anno riprenderanno a salire, perché io non lo so se ancora più in basso di così possano andare, per cui cercate di avere bene a mente anche questa regola. Poi se proprio volete la rata più bassa del mondo, in questo momento è chiaro che il variabile a Navizzari è molto conveniente, però attenzione a non fare scelte di fretta, no? Perché questi tassi, come dicevo poco fa, riprenderanno a salire fra qualche tempo, e che, con quali conseguenze? Certo, ci auguriamo anzi che risalgano, nel senso che se non risalgono siamo ancora in una situazione critica per il mercato. Paradossalmente ce lo dobbiamo anche augurare, ha ragione, certo. È vero. Esatto, per cui ci auguriamo che aumentino. Certo, la situazione attuale, come diceva anche prima il dottor Palantoni, in realtà porta a scegliere il tasso fisso, nel senso che oramai l'IRS, il parametro di riferimento del tasso fisso, ha dei valori così bassi. Ci sono dei valori veramente sotto l'1% oramai, per cui effettivamente la rata di un mutuo a tasso fisso è veramente molto bassa. Probabilmente assicurarsi, cioè oggi l'assicurazione di una rata fissa nel corso del tempo non costa poi così tanto come invece accadeva in passato, per cui sicuramente il fisso potrebbe essere interessante. Certo. Poi economicamente continua il variabile ad essere più conveniente sicuramente, però la differenza fra i due tassi ormai si aggira intorno all'1%, quindi bisogna valutare anche questo quando si fa la scelta. Allora, 800 24 00 24, intanto direi di cominciare subito ad aprire lo sportello di Cuore Denari, visto che prima abbiamo aperto quello di Altro Consumo e quello di Caripar, ma adesso tocca a noi, anche se poi i consulenti saranno gli stessi con i quali abbiamo interagito fino a questo momento, cioè Anna Vizzeri e Carmine Paola Antoni. Allora, cominciamo con la domanda che si fa Pina da Savona al nostro numero verde. Pina, benvenuta, buongiorno. Buongiorno. Eccoci a lei. Senta, io volevo fare una domanda. Mio figlio ha stipulato un mutuo a tasso fisso 2 anni fa. Uh-huh. Si è rivolta alla sua stessa banca per avere una rinegoziazione, visto che i tassi sono in discesa. La banca non risponde, quindi lui pensava di rivolgersi a un'altra banca, quindi in questo caso si chiamerebbe Surroga, se ho capito bene, per avere un tasso migliore. Uh-huh. Volevo sapere una cosa, questa operazione ha dei costi per mio figlio, questa surroga che sarebbe... rivolgendosi a un'altra banca? Praticamente, no? Pina, la domanda perfetta per questa mattina, per la quale la ringraziamo di avercela fatta all'800 24 00 24. La prima cosa che mi fa un po' indispettire, lo voglio subito chiedere a Carmine Paolo Antonio, per quale motivo una banca non risponde? Paolo Antonio, ma se un cliente vi viene a fare una domanda di questo tipo, voglio dire, avete anche tutto il diritto di dire no, non rinegoziamo perché tu hai firmato un contratto 2 anni fa, noi non abbiamo nessun dovere di farti di accontentarti, di farti questa rinegoziazione, ma voglio dire, chiedere è lecito, rispondere è cortesia. Ma lei che ne pensa dei suoi colleghi che non rispondono? Chiaramente qua non parliamo di uno sportello di Cariparma, ma in termini generali, voi avete per esempio un codice interno che vi impone di dare una risposta a un cliente che vi fa una domanda? Primo aspetto, poi andiamo al secondo. Ma allora, innanzitutto direi all'ascoltatrice di passare presso uno degli sportelli di Cariparma, perché secondo me troverà sicuramente le risposte per i bisogni del figlio. Detto questo, andiamo alla primo aspetto, quale faccio fare subito una promozione commerciale. Diciamo che realmente io devo credo che in questo momento il rapporto con il cliente deve essere un rapporto fiduciario. E quando un cliente viene in una filiale per chiedere una rinegoziazione o comunque una valutazione complessiva, bisogna sicuramente valutare con lui correttamente, quindi dargli le risposte, perché questo gli consente anche di avere una valutazione più strutturale di quella che è il bisogno reale del cliente, perché il rischio è che il cliente guardi solamente la rata, ma probabilmente all'interno del proprio mutuo potrebbe avere già quegli strumenti legati alla flessibilità. Mm. Ad esempio, noi offriamo la possibilità di sospendere la quota capitale fino a 24 mesi o di ridurre di 5 anni la durata del mutuo in caso di eventi particolari. Ci sono dei funzionamenti misti naturalmente tra il mutuo a tasso variabile puro e il mutuo a tasso fisso puro. Abbiamo detto tante volte, effettivamente oggi ci sono delle opzioni di flessibilità molto diffuse sul mercato, ammettendo appunto che il figlio di Pina da Savona abbia un tasso fisso puro, però il tema è capire per quale motivo Anna Vizzeri, un direttore non dovrebbe sentirsi nell'obbligo di rispondere anche, come dicevo prima, con un no, se ritiene di non volerlo fare, però mi pare che sia quantomeno il minimo sindacale, a meno che questo sportello non sia sovraccarico di richieste di questo tipo, ma insomma dubito, in ogni caso il lavoro da fare è quello, no? Vizzeri. Certo, io direi che però a questo punto forse bisognerebbe anche capovolgere l'iter, nel senso che prima di rivolgersi probabilmente alla propria banca, il passo migliore sarebbe quello di confrontare le condizioni di mercato e andare a chiedere proprio delle offerte ai concorrenti, perché spesso proprio avere delle offerte più convenienti convince la banca iniziale a dare una risposta e quindi magari a migliorare anche le condizioni, a decidere di trattenere il cliente o lasciarlo andare. Naturalmente, andiamo allora alla seconda parte della domanda di Pina. Mettendo che avesse fatto questo passo, no? Il figlio si sta già guardando attorno e è nella piena consapevolezza adesso che sta trovando qualcosa di più conveniente sul mercato. Ammettendo che trovi una nuova banca disposta ad accoglierlo e ad accollarsi il vecchio mutuo dalla vecchia banca, quanto costa questa operazione, Anna Vizzeri? Questa operazione è totalmente gratuita, nel senso che non possono essere richieste né spese bancarie né nuove spese assicurative, perché il cliente ha diritto di trasferire alla nuova banca anche le vecchie coperture assicurative già stipulate. o eventualmente di chiedere il rimborso delle coperture già in essere, e anche il notaio, le spese del notaio sono a carico della nuova banca che accetta la surroga. Perché ecco, quindi, qua il costo del notaio deve essere sostenuto, perché di fatto si stipula un atto nuovo nei confronti della banca nuova, ma praticamente mi ribadisce questo aspetto, perché magari qualche banca ritengo che invece possa nicchiare su questo. Attenzione, c'è il costo del notaio del quale ti devi incaricare tu, diciamo, direbbe il cliente. Stiamo parlando ovviamente di una surroga, quindi del trasferimento del capitale residuo del mutuo iniziale verso una nuova banca, quindi si tratta di un atto, diciamo così, semplificato, i cui costi sono anche più contenuti e che per legge dal 2007 ormai sono a carico appunto della banca, quindi il cliente non deve assolutamente pagare nulla, neanche le spese notarili. Devo anche dire che purtroppo però si trovano ancora sul mercato degli operatori che fanno richieste di questo genere, quindi chiedono delle spese al cliente. Bisogna sapere appunto che nulla è dovuto. Certo. Senta Vizzari, la surroga significa che per il figlio di Pina da Savona il mutuo che viene trasferito in un'altra banca ha le stesse identiche condizioni, nel senso che certamente saranno più favorevoli quelle della banca nuova, ma il mutuo da trasferire alle stesse condizioni, nel senso che sarà un nuovo mutuo a tasso fisso ma un po' più conveniente, se lui lo volesse invece variabile, quella è una surroga o una sostituzione? Sì, allora l'unica limitazione per poter parlare di surroga, come dicevo prima, è il fatto che il capitale residuo del mutuo iniziale non può essere aumentato. Quindi questa è l'unica limitazione, tutte le altre componenti potrebbero essere modificate, quindi anche la tipologia di tasso, quindi anche ad esempio la durata. Se la durata residua è di 15 anni potrei anche pensare ad aumentare la durata, quindi farla diventare 20 anni per avere una rata periodica. E quella sarebbe una sostituzione o una surroga? Sarebbe una surroga comunque, sarebbe una surroga, l'unica limitazione riguarda il capitale. Quindi residuo. Si tratterebbe di una sostituzione solo se viene variato l'importo complessivo, esatto, ma per tutte le altre condizioni abbiamo comunque sempre una surroga. Nel frattempo non posso chiedere di essere surrogata in questi impegni, non so neanche se il termine è corretto, sono le 11.30, ho l'appuntamento con i mercati, poi torniamo con Carmine Paolo Antonio e Anna Vizzari su questi argomenti molto interessanti, a giudicare dalle tantissime telefonate che stanno arrivando. Vedo che davvero in questo momento è la grande domanda che molti di voi si stanno facendo in famiglia: che cosa faccio con il mutuo che sto pagando? Cambio condizioni, vado a rompere un pochino le scatole al direttore di banca, lo cambio, vado da un'altra parte? 800 24 00 24, ci sentiamo tra pochissimo. Cuore e denari. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo. Questa canzone è il nostro grande cavallo di battaglia. Tra l'altro a me inorridisce proprio il termine accendere un mutuo, anche se qualche volta, guardando tutto il nostro prospetto, tutto il piano di ammortamento, a me verrebbe voglia di dargli un po' fuoco, insomma me lo toglierei molto volentieri questo pensiero. Chissà se anche voi siete di questa idea, raccontatemelo all'800 24 00 24. Insomma, no, c'è poco da scherzare, siccome siamo in tanti invece a pagarlo, a rimborsarlo questo mutuo grazie al quale ci siamo magari comprati la casa dei nostri sogni. È bene avere tutto il massimo rispetto possibile di questo impegno finanziario, perché ce lo trasciniamo anche per molti anni, però possiamo un po' alleggerirlo adesso grazie allo scenario di mercato che si sta concretizzando da molto tempo. E allora 800 24 00 24 per tutte le vostre domande che stiamo girando ai nostri esperti di questa mattina: Carmine Paolo Antonio, direttore marketing di Cariparma Credit Agricole, e Anna Vizzari dell'ufficio studi economico-giuridici di Altro Consumo. Tantissime le vostre domande all'800 24 00 24. Sentirei Michele da Firenze, che appunto solleva una questione che non abbiamo ancora toccato, Michele, per cui abbiamo preso la sua telefonata proprio per questa ragione. Buongiorno intanto. Sì, buongiorno, buongiorno. Semplicemente io ho due mutui, uno nel 2007 e uno a marzo di quest'anno. Nel 2007 ho un variabile dove la banca ha uno spread dell'1% e c'era un Euribor del 4,7%. Esatto, adesso la situazione si è capovolta. Ad oggi ho uno spread del 3,7% della banca, d'accordo, è uno 0,13% di Euribor al momento dell'atto. Mm-hmm. 300.000 euro nel marzo di quest'anno, 104.000 euro nel 2007. Mm-hmm. La domanda è questa qui: nel momento in cui i tassi dovessero ricominciare a salire, anche in un'ipotesi normale che arrivassero all'1%, la rata prenderebbe dimensioni importanti. Certo. D'accordo che è un variabile. Perché però... sta pagando tutti gli interessi adesso, Michele, certo. No, quindi... D'accordo che è un variabile, però è anche vero che lo spread della banca è quadruplicato e quindi si potrebbe affacciare, diciamo così, un'ipotesi in cui anche se aumentasse un pochino l'Euribor, comunque ci si ritrova a dei tassi già molto importanti. Sì. Perché logicamente è quadruplicato lo spread della banca. Quindi a quel punto qual è l'azione eventuale da fare? Rinegoziare lo spread, direi la prima cosa al volo, Carmine, Paolo Antonio, no? Che magari è il primo passo semplice da fare. Ecco. È la cosa più semplice, rinegoziare lo spread, oppure nel mutuo del 2007 surrogarlo con un tasso fisso. Certo. Perché oggi con l'IRS praticamente è 0,82, ad esempio a 20 anni. Cioè ci trovano delle soluzioni a 2,60 che sono molto più convenienti rispetto alla soluzione che aveva uno spread di 3,70 è altino in questo momento. È anche vero che è abbastanza consistente l'importo che ha chiesto Michele, per cui la banca probabilmente ha voluto come dire mettersi una garanzia un po' più significativa. Paolo Antonio. Sì, probabilmente, ecco, va verificato adesso in dettaglio la tipologia di offerta, la percentuale di richiesta dal cliente rispetto al valore peritato, ci sono tutta una serie di fattori generali, però sicuramente uno spread di 3,70 oggi su un mutuo fatto a marzo di quest'anno è uno spread decisamente importante, certo, considerando lo scenario medio degli spread che oggi si trovano sul mercato. Anna Vizzari, è d'accordo? Sì, assolutamente d'accordo, e aggiungerei appunto che questa domanda fa capire quali sono le due componenti di un tasso, di un mutuo da tenere in considerazione, nel senso che non bisogna parlare soltanto di tasso, soprattutto in un mutuo a tasso variabile, ma delle due componenti, quindi lo spread che rimane sempre fisso e quindi non varia nel costo del mutuo, e invece la componente variabile che è il parametro di mercato e che ovviamente varia perché appunto dipende dal valore dell'Euribor. Quindi nel caso specifico sicuramente il mutuo che è lo spread dell'1% è assolutamente vantaggioso, anzi è un'offerta che difficilmente si riesce a trovare anche ora oggi sul mercato. Quello del 2007 è il primo mutuo a cui si riferisce, il 3,7 invece è un pochino alto. Però detto questo, Michele, allora intanto teniamoci questi tassi e gli Euribor così bassi, non appena i tassi inevitabilmente riprenderanno a salire, secondo me comunque ancora qualche mese di tranquillità ce l'abbiamo davanti a noi, prende in considerazione appunto l'eventualità di andare a rinegoziare subito lo spread pattuito in marzo. Eventualmente appunto ci sono sempre le altre operazioni che abbiamo indicato prima, una surroga, eventualmente un'altra strada da battere nell'eventualità. 800 24 00 24 numero verde per le vostre domande. Adesso sono pronti Franco da Milano e Gaetano da Milano. Però volevo anche fare con Anna Vizzari un'altra precisazione a beneficio dei nostri ascoltatori, perché vedo che molti ci stanno scrivendo, Vizzari, molte persone che stanno praticamente rimborsando l'ultima parte del mutuo, sono diciamo nella seconda fase di vita del finanziamento, però sono ugualmente stuzzicati dalla condizione nuova e molto conveniente dei tassi di interesse. Allora vogliamo spiegare che soprattutto per chi ha fatto un tasso variabile qualche anno fa e adesso è nella seconda fase di rimborso del mutuo, in questo momento i tassi di interesse praticamente non li paga più, sta rimborsando la quota capitale, per cui è inutile che vada a parlare in banca per chiedere una rinegoziazione e rendere la rata più leggera del mutuo, o comunque se anche volesse abbatterla un po', in questo caso che cosa possono fare queste persone? No, bisogna ovviamente sempre valutare qual è appunto lo spread che hanno ottenuto con la stipula del mutuo iniziale. Vizzari, la fermo subito perché sì, è proprio la domanda che voleva farci Gaetano da Milano, al quale l'ho bruciata, ma gliela faccio spiegare a lui così almeno siamo ancora più concreti. Gaetano. Pronto, buongiorno, chiedo scusa per la voce che è un po' vittima di questo maltempo in questi giorni. Cosa vogliono dire a me? Guardi, col microfono qui devo stare attentissima. Ci dica. Esattamente quello che stavo per dire, che volevo dire io è questo. Stamattina sono andato in banca per chiedere se valeva la pena di sostituire, quindi surrogare questo prestito per l'automobile che ho con un'altra banca, e lui ha guardato il piano di ammortamento, mi ha detto ma dai, sei alle ultime rate del finanziamento, per cui stai rimborsando sostanzialmente capitale, e quindi se adesso facessi la surruga, subentrassi su questo mutuo anche a parità di tasso, dovresti pagare di più di interesse. Io che non ci capisco molto, però se l'ammortamento francese ha questa particolarità, ho detto va bene, allora lo lasciamo lì dov'è. Allora Gaetano, la ringrazio perché la sua situazione ci dà il pretesto anche di chiedere una cosa in più ad Anna Vizzari. Parlava Gaetano non di un mutuo ipotecario, quindi non di un mutuo con cui ha acquistato una casa, ma di un prestito con cui ha acquistato un'automobile. Valgono le stesse regole per il mutuo? Si può surrogare anche un prestito, Vizzari? Allora, la surroga riguarda ovviamente l'ipoteca. Quindi stiamo parlando di un contratto, di un finanziamento che viene, che è garantito da, da un'ipoteca. Quindi mi, penso che in, nel caso specifico stiamo parlando più che di una surroga, di una rinegoziazione delle condizioni con la banca, immagino. Detto questo, però, indipendentemente da, dalla durata residua del, del mutuo, cioè probabilmente immagino che in questo caso il finanziamento stesse quasi per concludersi e quindi la durata residua fosse proprio minima. Perché appunto il problema della surroga è che comunque ci sono anche delle offerte che hanno delle durate particolari, cioè intendo dire se ho una durata residua di 11 anni potrei trovare una banca che 11 anni che non mi offre una surroga 11 anni ma mi obbliga per esempio ad avere una durata di 15 anni. Ecco, questo allungamento del piano di ammortamento potrebbe portare a rendere appunto non conveniente la surroga stessa, quindi bisogna fare attenzione soprattutto a questo. Poi in realtà quello che è importante è ridurre la rata periodica, quindi indipendentemente dal momento in cui ci si trova, se si riduce, se si riesce a ridurre la rata periodica e la durata residua è la stessa, è evidente che una semplice formula matematica è evidente che sia comunque un vantaggio. Però insomma, prima di andare a fare inutilmente questo giro in banca, valutate a che punto siete del piano di rimborso. 800 24 00 24. Paolo Antonio, Carmine Paolo Antonio, cari Parma, c'è anche un'altra situazione che si sta verificando in questo periodo molto curiosa e che ahimè molti sottoscrittori di mutui la stanno scoprendo in questo momento e si stanno impegnando adesso a leggere nelle pieghe del contratto magari stipulato qualche anno fa. In molti, vedendo magari hanno proprio il mutuo a tasso variabile e notando questa discesa dei tassi, immaginano che la discesa della rata sia altrettanto vistosa e invece magari stanno scoprendo in questo momento che questa rata più di tanto non scende. Hanno scoperto di avere sottoscritto la cosiddetta opzione floor, cioè il pavimento, che è una tutela praticamente della banca da un'eventualità che i tassi scendano molto o moltissimo. Avete anche voi questi mutui in casa? Ci sono delle persone che si stanno lamentando di questa cosa, magari non è stata spiegata bene in fase di sottoscrizione del mutuo? Allora, noi non abbiamo al momento sui mutui in essere una clausola cosiddetta floor, no? In, sui nostri mutui. Nello stesso tempo devo dire che in realtà non, i nostri clienti non stanno andando in filiale per lamentarsi o per chiedersi informazioni, perché non avendola in generale si fa fatica, no? A parlare di qualcosa che non esiste. Però secondo me il vero punto di caduta è la simmetria informativa nei casi in cui c'è la presenza di queste clausole, cioè è importante che la banca spieghi al cliente che ha firmato un contratto che prevede questa clausola. Certo. Nel momento in cui ha spiegato questo e il cliente ne è chiaramente dotto, io credo che non si creino delle situazioni di conflitto o di criticità particolare. Il punto vero è che mediamente le banche italiane poi calcolano i tassi Euribor che sono legati alle rate con la media del mese precedente o di due mesi precedenti, quindi poi sostanzialmente il dato puntuale dell'Euribor negativo ha un'incidenza sicuramente marginale rispetto a quelle che possono essere le aspettative giornalistiche, non mi passi il termine del. E ti pareva che non ci dava riduzione. Pure una pizzicata anche a noi, tocca a noi. E vabbè, sa com'è, poi noi leggiamo di quello che succede per esempio in Danimarca, dove addirittura alla luce di questo scenario negativo sui tassi le banche mensilmente accreditano anche degli importi ai propri clienti sul conto corrente, quindi restituiscono del denaro, per cui noi ci illuminiamo e speriamo che tutto questo accada anche in Italia, invece qua noi ci confrontiamo con i floor. Devo dire che comunque anche sempre a difesa delle banche, visto che ogni tanto curiosamente mi capita di fare pure questo, chi mai avrebbe immaginato uno scenario di Euribor a 3 mesi negativo, per cui forse anche per la banca che si era data una garanzia di questo genere, come appunto la formulazione del floor sul contratto di mutuo, è uno scenario inedito che effettivamente si concretizza in maniera del tutto inaspettata. Allora adesso io devo andare in pausa perché ci sono suggerimenti per chi è in viaggio, magari su questi punti faccio dare un'altra precisazione ad Anna Vizzari, poi vado subito da Franco e poi volevo farmi raccontare da Carmine Paolo Antonio anche qualcosa di questo nuovo mutuo che è partito in casa Cari Parma, il mutuo green, un mutuo verde che addirittura dà la possibilità a chi lo sottoscrive di risparmiare per un anno su alcune bollette che arrivano in casa. A tra poco. Tutti attenti al traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Cuore e denari. Sono stanco, tanto stanco. Sono stanco da quando sono nato, sono stanco, mi va. Allora, molti di noi saranno certamente stanchi di pagare tutti i mesi la rata del mutuo, ma parliamo anche di quella stanchezza fisica, di quella spossatezza, di quel nervosismo, di quell'affaticamento, di quella difficoltà a concentrarci, che sono un po' tutti quei sintomi tipici di questa stagione, no? È il momento del cambio, arriva la primavera, ma in realtà per molti di noi si accusa un colpo anche consistente. Voi dove sentite maggiormente la stanchezza? Magari sono giorni in cui non riuscite a recuperare le ore perse di sonno, vi sentite stanchi nel gestire lo stress, siete scarichi, anche un po' irritabili, ma diteci come reagite. La stanchezza vi toglie le forze fisiche e mentali e siete sopraffatti dalla voglia di rallentare, delegare e rimandare, oppure al contrario, perché guardate che capita anche questo, siete iperattivi, non riuscite a fermarvi, in qualche maniera la combattete questa stanchezza e siete presi da una sorta di frenesia nel fare le cose, anche se poi vi rendete conto che magari non riuscite a portarle a termine come vorreste. Insomma, vi sentite più come dei bradipi o colibrì? Schieratevi da qualche parte, chiamateci, noi vi racconteremo poi in sostanza come interpretare anche questi segnali con il nostro ospite dalla parte di Cuore più tardi, il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo della Fondazione Don Gnocchi di Parma, all'Università di Parma, oggi Parma grande protagonista della nostra trasmissione, ma il dottor Gualerzi è soprattutto il nostro esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica, col quale cercheremo di trovare le soluzioni migliori caso per caso. E vado su, su, su, e vado giù, giù, giù, e vado su, su, su. Ultimi minuti di tempo dedicati ai mutui a cuore e denari, 800 24 00 24. Prima del commento di Anna Vizzari sul floor, la rata che vorremmo che scendesse ancora di più, ma più di lì non va, e poi con Carmine Paolo Antoni, il mutuo green, ma prima la promessa l'avevo fatta a Franco da Milano, che aspetta da un po'. Franco, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti quanti. La mia domanda è molto semplice. Io ho contratto un mutuo a tasso fisso 8 anni fa, quando ancora diciamo non eravamo entrati in crisi economica, e il tasso fisso era del 5,74% globale, tra spread ora invece ho chiesto alla mia banca, o meglio 2 anni fa ho chiesto alla mia banca di poter cambiare il tasso da fisso a variabile, ma me l'ha negato. È una delle 3 banche principali italiane, non dico il nome per correttezza, ma la realtà è questa. Facciamo subito un'analisi, Franco, al volo. E quindi le hanno detto di no. In ogni caso, intanto il tema è capire se lei fa bene a fare questa scelta in questo momento. La cosa bella, Franco, è che quando tutti nel 2008 e 2009 erano preoccupati, quelli che avevano le rate variabili, perché la loro rata esplodeva, lei stava lì tutto contento però. Me l'immagino, era un po' alta, però lei stava lì tutto contento. No, però devo dire una cosa per chiudere il discorso, che sono ritornato all'attacco del mio direttore della banca fatto bene a parlare del mutuo, la quale mi ha detto: ha scoperto, perché in effetti è vero, 8 anni fa io non avevo fatto nessuna assicurazione sul credito, cioè sul prestito, per cui la proposta che io ho fatto al direttore è stata questa: io pago e assicuro, perché ho anche un'età che non è più giovanile, assicuro i miei 90.000 euro mancanti del mutuo, e voi mi passate da tasso fisso a tasso variabile. E così sembrerebbe incredibile. È andato lei con la trattativa pronta per questo direttore di banca, che si sarà trovato anche un po' spiazzato dall'avere una persona così attenta. A noi fa piacere, insomma, che condividiate con noi queste vostre esperienze. Allora, Anna Vizzari, un po' di cose con lei si è preso appunti. Cominciamo da quest'ultimo caso. Franco da Milano ha un tasso fisso vecchio di 8 anni fa che l'ha protetto da una fase di mercato terribile, ma adesso comunque lo giudica evidentemente troppo alto. La banca nicchia, cosa deve fare secondo lei? Beh, io gli suggerisco di fare un confronto sulle offerte, può anche andare sul nostro sito altoconsumo.it, c'è un servizio di comparazione dei mutui, puoi trovare una classifica delle offerte migliori, sicuramente troverà dei tassi che sono addirittura forse meno della metà del suo tasso attuale, quindi secondo me un assurer è sicuramente la soluzione. Certo. Peraltro immagino che il direttore di banca sarà stato contentissimo di aver trovato un cliente che addirittura si offre di fargli la polizza. Esatto, per assicurarsi. Cose mai viste. Vabbè, quindi Franco insista, o se no se ne vada, perché mi pare che qua oggi abbiamo un mercato particolarmente vivace e competitivo che le dà l'opportunità di cercare qualcosa di meglio. Un commento sul floor, Vizzari ce l'ha per noi? Sì, su Floor noi abbiamo avuto purtroppo delle lamentele, perché i clienti che hanno sottoscritto questi contratti si sono accorti soltanto adesso, appunto quando le rate non si sono ridotte, la presenza di questa clausola, perché purtroppo non era stata spiegata. Anche in questo caso probabilmente la soluzione è quella di cambiare banca, approfittando della situazione di mercato, quindi cercare un nuovo contratto senza questa opzione, questa limitazione. Allora io intanto segnalo subito a Francesco da Pisa, Gaetano da Napoli, adesso tutti gli ascoltatori ci state chiamando e scrivendo a decine, scriveteci a cuoredenari@radio24.it, perché sapete che poi a noi apriamo i nostri sportelli anche nel pomeriggio. Anna Vizzari, se potessi fare una classifica, è una delle persone più attive nell'aiutarci a rispondere agli ascoltatori a microfoni spenti, per cui ci darà una mano anche questa volta e cercheremo di rispondere a tutti, non in diretta ma in differita, diciamo così. Carmine Paolo Antonio, allora è partita la vostra nuova promozione sul Gran Mutuo Green 2015. Un nome altosonante, insomma, per raccontare di questo progetto che avete fatto partire proprio da poco. Praticamente voi erogate il mutuo, avete fatto un accordo con una grande società, con Edison Energia, grazie al quale praticamente chi sottoscrive un mutuo con voi potrà beneficiare anche di uno sconto speciale sul rifornimento elettrico per un anno. Allora, se ce la vuole raccontare velocemente questa iniziativa, noi vogliamo conoscerne i dettagli volentieri, ma soprattutto a me quello che interessa capire è: ma perché non fare un bello sconto sullo spread per un anno invece che fare uno sconto in bolletta, fare questo accordo con un'altra società che complica un po' tutto? Insomma, a me mi ricordo già quando voi qualche anno fa regalavate il frigorifero insieme alla sottoscrizione del mutuo. Perché fare tutto questo? Insomma, non si può fare banca e basta? Ma se mi permette una battuta, volevamo attaccare la corrente al frigorifero, perché solo il frigorifero senza la corrente poi non funzionava. No, in realtà prendiamo atto della battuta, ma sappiamo bene che i frigoriferi degli italiani almeno mangiamo bene, sono sempre belli pieni e attaccati. E quindi in realtà sono i clienti che ci chiedono questo. Noi ogni anno facciamo dei gruppi di ascolto di clienti potenziali e non, e su cui chiediamo sostanzialmente quale valore dare al mutuo, perché il mutuo non è una commodity che si misura solo sul prezzo. Intorno al mutuo si concretizzano tutta una serie di aspettative di semplicità, di sostenibilità del tempo, e soprattutto un elemento che emerge ricorrente da diverso tempo è il fatto proprio che un contributo, si chiede anche un contributo alle banche nella parte iniziale. Per questo la soluzione che abbiamo di un mutuo a tasso finito per i primi 24 mesi con una rata di 499 euro che noi abbiamo dichiarato già subito nei nostri manifesti, nella nostra comunicazione, così il cliente ha già un'idea, sa che per 100.000 euro i primi 24 mesi pagherà 499 euro. Quindi questo è un elemento non solo di trasparenza, ma soprattutto da consente al cliente di avere una chiara valutazione di quello che è l'iniziale impegno finanziario. Certo, mi raccomando Paolo Antonio, visto che siete tanto impegnati, da quello che percepisco sul tema della trasparenza nel combattere questa asimmetria informativa della quale abbiamo parlato a lungo nella trasmissione, continuate soprattutto su questo terreno perché ce n'è tanto bisogno. Noi intanto da parte nostra, dalla radio, faremo anche quello che dobbiamo fare, lo faremo anche con Anna Vizzari di Altro Consumo. Io vi ringrazio perché in ritardissimo devo andare al giornale radio e poi torniamo con la nostra energia che sotto terra tra poco. Cuore e denari. Messer Aprile, fai ruba cuore. Messer Aprile, che bella immagine, ma aprile è anche dolce dormire. Vi alzate già stanchi al mattino? Allora, la prima cosa da fare intanto è acchiappare immediatamente il telefono, comporre l'800240024, cercate subito di combattere questa stanchezza con un gesto utile. Poi vi spiegherò perché è necessario farlo, intraprendere questa cura. E poi nel corso della giornata sognate sempre il letto, in una parola siete stanchi, scarichi, senza energie. Aiutiamoci con un'immagine, provate a visualizzare nella vostra mente un serbatoio, la vostra benzina, un GPL, metano, insomma la vostra carica. Che punto è? Avete il serbatoio pieno? Siete a metà? Oppure la spia rossa è accesa già da un bel pezzo e avete bisogno di un rifornimento al più presto? Siete arrivati? E allora questo numero verde componetelo, perché io stamattina vi faccio chiacchierare con uno dei nostri ospiti preferiti, il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo della Fondazione Don Gnocchi di Parma e all'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica, autore tra l'altro di uno dei nostri libri preferiti, nostri anche dei nostri ascoltatori, che è Super Salute. Dottor Gualerzi, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie mille. Allora, io ho già pronto Matteo da Milano che vuole raccontarci come si sente, però vorrei subito avere qualche indicazione da lei, dottor Gualerzi, perché dobbiamo, anche se abbiamo un po' estremizzato, invitando i nostri ascoltatori a cercare di individuarsi nella popolazione dei bradipi o in quella dei colibrì, in realtà vorrei spiegare che cosa raccontano questi due diversi modi di reagire alla stanchezza, perché dicevamo prima, c'è chi proprio non riesce a risollevarsi, si alza la mattina dal letto ma vorrebbe rinfilarsi immediatamente sotto le coperte. Qua non parliamo chiaramente di problemi più seri come possono essere magari questo accenno di depressione, è un tema che lasciamo proprio ad altre puntate, però proprio di quella stanchezza fisica che ci sembra quadruplicata in questo cambio di stagione. Poi ci sono anche i colibrì, quelli che ce l'hanno, questa stanchezza proprio che arriva allo sfinimento, che non dà voglia di far nulla, ma la combattono in realtà triplicando le attività e quindi combattendola in questo modo. Io non sapevo che ci fosse anche questa, forse perché non l'ho mai incontrata, questa vocazione a, come dire, ad intraprendere molte attività per combattere la stanchezza, quindi a fare questo, dottor Gualerzi. Ma insomma, questi due modi di essere, che cosa ci suggeriscono? Beh, ci suggeriscono sicuramente che siamo degli animali che vivono appunto con degli ormoni che vengono modificati molto dall'ambiente in cui viviamo. Basta semplicemente un cambio di orario, di luce, per generare delle conseguenze, dei cambiamenti molto importanti. Sostanzialmente chi soffre di più di queste di variazioni, perché poi ci sono anche persone che obiettivamente non sentono la primavera né nel senso della stanchezza né nel senso dell'euforia, sono quelli che hanno un sistema appunto endocrino, un sistema ormonale più sensibile. Nella maggior parte dei casi la primavera si traduce in una ventata di energia, perché appunto si rimette in campo il ciclo produttivo. E diciamo che questo dalle nostre latitudini equivale a una sferzata d'energia, una ripresa, un risveglio che poi accomuna un po' tutta la natura. Basta che ci guardiamo fuori dalla finestra, non oggi, almeno qua è brutto, però in realtà ecco, vediamo proprio l'energia. Però alcuni invece stanno male, queste persone con l'arrivo del clima mite e la fioritura si sentono stanche, fiacche, spossate. Il fatto è che il loro equilibrio ormonale ed elettrolitico è stato molto spesso pompato oltre misura in inverno, magari a causa delle attività lavorative, stressanti, via dicendo, e il tutto in una stagione che dovrebbe essere in teoria svolta per andare un pochino in letargo, invece sappiamo quanto lavoriamo in inverno. Il risultato è che dopo questa iperattività invernale, con la primavera è come se si venisse presi in contropiedi, si è stanchi, spossati e svogliati, e ancora un po' di tempo per riprendersi. Comunque, giusto per tranquillizzare, per concludere, l'effetto del cambio di stagione, sia in positivo che in negativo, si affievolisce per tutti man mano che l'organismo si abitua, ci adattiamo un po' a tutto noi. È vero, no, però tra l'altro è anche interessante, dottor Gualerzi, a proposito di adattamento, il fatto che tutto sommato, anche se ci scherziamo molto noi con i proverbi, la questione del non esistono più le mezze stagioni è anche un po' vera. Qualche volta questi ultimi anni questo meteo ci ha abituato anche a passare in maniera molto repentina, magari dal freddo al caldo intenso, per cui qualche volta anche lì il fisico viene colto alla sprovvista, no? Questo passaggio graduale che è determinato dalla primavera in questo momento, dall'autunno quando andremo appunto verso l'inverno, non ci sono più questi passaggi, per cui il fisico ne subisce un po' di più le conseguenze. Questo ha accentuato molti problemi, perché appunto questo famoso adattamento di cui parlavo viene meno, perché non appena ci adattiamo al fatto di avere più luce, più calore, ecco che inanelliamo magari 5-6 giornate autunnali e questo riporta il problema un po' indietro, quindi è più difficoltoso. Però appunto, essendo noi degli animali in grado di adattarci a tutto, ci si adatta anche a questo, con un po' più di fatica. Infatti, e magari anche con qualche aiuto che adesso lei ci elencherà. Prima di andare a parlare di questa sindrome del letargo, che scopro essere un malessere che colpisce circa 2 milioni di italiani in questo periodo, sentirei immediatamente i nostri ascoltatori, perché li abbiamo invitati a combattere la loro stanchezza questa mattina, e non la pigrizia, proprio quella stanchezza che si avverte in questo periodo, anche chiamando l'800 024 0024. Il primo che lo ha fatto è stato il nostro Massimo Matteo da Milano. Scusi Matteo, benvenuto. Piacere, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, in effetti posso assolutamente dire che questo è un periodo in cui mi sento molto stanco, nel senso che proprio mi manca la concentrazione, prima cosa. Di notte faccio veramente fatica a addormentarmi e poi mi sveglio più di una volta, e quindi diciamo non riesco bene a recuperare durante la notte. Ecco, quindi diciamo anche a livello di concentrazione ho proprio un calo deciso, e quindi non è che un effetto particolare, una debilitazione molto, molto, molto pesante, però sicuramente la sento ed è pesante. Certo, cosa fa per combatterla lei, Matteo? Ma, diciamo che più che altro non è che faccio molto, io lavoro dalla mattina alla sera e quindi cerco di essere attivo, cioè non ci penso, mi concentro, vado avanti, però in effetti vedo che la stanchezza mi si accumula, cioè non riesco a smaltirla. Ecco. Grazie, grazie Matteo. Dottor Gualerzi, allora qua Matteo dobbiamo dare qualche indicazione, è fra quelli che chiaramente non è che possono fare diversamente, cercano un po' di combattere tutta questa sintomatologia un po' fastidiosa, che soprattutto si manifesta nella difficoltà di concentrazione, e poi la notte è molto difficile, perché? Sì, lui soffre proprio della sindrome del letargo, quella che viene definita in questo modo, quindi un pochino più di difficoltà anche a dormire. Perché? Perché in realtà la luce da un certo punto di vista ci stimola, e quindi stimola le nostre attività, però questo è uno stimolo anche diciamo ormonale, e gli ormoni che vengono prodotti dalla maggiore quantità di luce vanno a inibire quelli che sono al contrario gli ormoni che ci farebbero riposare. Anche il fatto che alla sera c'è più luce ritarda la produzione di melatonina e quindi rende più difficoltoso l'addormentamento. Tendenzialmente queste persone fanno fatica a dormire e ad addormentarsi, tendenzialmente hanno invece più sonno e hanno un reliquato, appunto, un problema di mancanza di sonno durante la mattina, quindi non si sveglierebbero dal letto, ma la sera tendono, infatti non glielo possiamo chiedere, ma andare a letto più tardi perché sono ancora molto attivati. E la risposta di Matteo però è abbastanza patognomonica, perché è proprio quello che non andrebbe fatto, cioè ha detto non ci penso, vado avanti, è un po' quello che facciamo spesso quando abbiamo un problema, non ci pensiamo, andiamo avanti, ecco, in questo caso non pensarci, andare avanti non fa altro che accumulare il problema, invece bisognerebbe pensarci, fermarci un attimo e poi magari seguire qualche consiglio che poi daremo dopo. Molto volentieri, anche perché ecco, soprattutto quando chiaramente questa stanchezza non si manifesta poi con sintomi drammatici, un po' più seri, che poi elencheremo, che possono anche esserci, quando si limitano alla mancanza di concentrazione, qualche disturbo nella notte, uno tende un po' a giustificare questa situazione dicendo è il cambio di stagione, pazienza, passerà. E invece è corretto, no, dottor Gualerzi, anche in questo momento, anche se magari dura poco, poter migliorare la propria qualità della vita. Perché è giusto che sia così, perché poi durante la giornata comunque gli impegni sono sempre tanti, sono sempre gli stessi e bisogna gestirli al meglio. Assolutamente, anche perché poi è vero che appunto questo è un cambio di stagione, accettiamo il fatto di essere più stanchi, ma se ignoriamo dei sintomi o dei segnali che il nostro corpo ci dà, ecco che da lì possono generare anche problematiche più importanti. Infatti. Per esempio, molto banale, ma la stanchezza genera anche un pochino di incompetenza immunitaria e quindi siamo più esposti anche agli agenti infettivi e quindi è più facile riammalarsi. Infatti state notando che in questo periodo c'è una recrudescenza dell'influenza ed è proprio legata al fatto che lo stress inibisce e comunque rende un pochino più vulnerabili gli organismi anche alla, appunto, ai virus. Certo. Per poi non parlare del tradizionale mal di testa, perché quello è sempre dietro l'angolo, no? Ma possono arrivare anche dei dolori muscolari, articolari, anche la cattiva digestione. Eh certo, perché obiettivamente noi tendiamo un po' da medici a spezzettare, quindi a dire esiste l'apparato digerente, la neurologia, la cardiologia, in realtà è tutto unito e quando gli ormoni funzionano male ecco che si ripercuotono un po' in tutti i settori. Possiamo dire, non volendo usare parole molto complesse, ma che c'è un malfunzionamento di tutto l'organismo, proprio perché non siamo in sintonia. Cioè tardiamo, quando cambia la stagione abbiamo un minimo di delay, di rallentamento nell'entrare in sintonia con l'ambiente, i nostri ormoni ci mettono un po' e fin tanto che non si sono adattati ecco che il malfunzionamento si ripercuote sull'appetito e sulla digestione, sul sonno e sul riposo, ma anche sulla capacità e la voglia di fare attività fisica. E poi a condire le cose spesso è il fatto che facciamo le cose in momenti sbagliati, non so, magari ci alleniamo quando non dovremmo, mangiamo quando non dovremmo. Infatti, allora, visto che lei ha utilizzato anche questo bellissimo termine molto radiofonico, no? Non siamo in sintonia, noi dobbiamo risintonizzarci con l'ambiente esterno in questo momento. Vediamo come possiamo aiutarvi a farlo. 800 24 00 24, combattuto la sua stanchezza, Rina da Varese. Sentiamo un po' se possiamo darle un aiuto in più. Rina, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, voi avete chiesto serbatoio pieno, serbatoio vuoto. Sì. Io ho pensato serbatoio pieno, perché io mi alzo normale, ho voglia di fare determinate cose, ma poi mi rendo conto che dopo un po' il serbatoio forse è pieno di benzina annacquata, non so come dire, non è il carburante giusto, insomma, per cui manca totalmente il carburante. Allora, primavera non primavera, io devo dire che 3 mesi fa ho iniziato a prendere una pastiglia leggera, mi si dice, per abbassare la pressione che era di media sulla giornata 144-75 e mi hanno detto no, va abbassata, e quindi ho iniziato. Adesso mi trovo con una pressione che è mediamente 110-60, a volte anche un po' più bassina. Non so se questo incide, per cui uno poi dice adesso hai la pressione così bassa. Dunque io qualunque lavoro, anche in casa, ho 70 anni, sono in pensione, anche una camminatina così. Sempre fatta, la faceva volentieri. No, le faccio volentieri perché le faccio volentieri, anche 2-3 camminate alla settimana di un'ora fatte bene, e quelle vanno. Se supero quel tempo... ma anche in casa, dopo un'oretta di lavori leggermente intensi, perché non ho un'attività casalinga pesante, si sente proprio spompata. Subito, ecco, spompata, e il battito cardiaco accelerato. Allora, Rina, aspetti lì, perché qua abbiamo materiale molto interessante per Massimo Gualersi. Credo che anche il caso di Rina sia proprio, come dire, un caso emblematico che può essere anche nella quotidianità dei pazienti di Massimo Gualersi. Come dice sempre Nicoletta, non possiamo fare diagnosi a distanza, chiaramente Rina andrebbe valutata nel suo quadro complessivo, ma a me è incuriosito molto questa situazione della pressione, dottor Gualersi. Mi pare che non sia proprio poverina nelle condizioni fisiologiche di affrontare questo cambio stagione, gliel'hanno fatta abbassare un bel po'? Vabbè, solitamente iniziare una terapia antipertensiva in un cambio stagionale non è mai, diciamo, non porta mai bene. Nel infatti senso l'ha che, cominciata ovviamente... 3 mesi fa, mi pare, ecco, di aver capito. Allora, Rina, sì. Quando dobbiamo tenere da conto che spesso le terapie antipertensive che riportano le pressioni normali nei periodi più freddi diventano eccessive nei mesi più caldi, quindi ci sta bene che obiettivamente in questo momento la signora Rina abbia un dimezzamento, addirittura una sospensione della terapia, perché a differenza di quanto si possa immaginare anche la terapia antipertensiva può essere interrotta nel caso in cui la pressione si abbassi, addirittura nel suo caso si abbassi anche sotto la soglia di normalità. e senza dubbio la stanchezza che le avverte è aumentata non solo perché c'è il cambio stagionale, ma perché questi valori pressori rendono più stanchi. Quindi se da una parte è giusto che la pressione normale deve essere la più bassa che una persona deve o riesce a tollerare, è anche vero che non bisogna esagerare, perché la pressione così bassa può dar fastidio, e in questo caso secondo me lei potrebbe fare a meno della terapia. E un buon modo per vedere, appunto, anche quello non c'è niente di male, comunque si può anche sospendere la terapia, andare a vedere quanto si rialza la pressione. Spesso per compensare la pressione bassa, poi la frequenza cardiaca si alza, e quindi quello che dice sempre Rina è normale, quindi non si deve spaventare, perché è un compenso e significa che il suo organismo sta funzionando molto bene. Allora, abbiamo delle vite molto frenetiche naturalmente, e questo chiaramente in momenti come quello attuale di cambio stagione non aiutano, ma ci sono molte tecniche oltre che molte soluzioni per poterci aiutare a gestire queste fasi di passaggio che sono comunque assolutamente inevitabili. Una di quelle di cui il dottor Gualersi parla a lungo nel suo libro Super Salute, edito da Sperling e Kupfer, è la tecnica del rilassamento. Sentiamo un po' che cosa dice nel suo libro. Le tecniche di rilassamento aiutano ad allentare non solo le tensioni fisiche, ma anche quelle mentali, a ridurre l'ansia, a far fronte a disturbi psicosomatici, a recuperare le energie fisiche e intellettive, a uscire dal circuito chiuso dello stress e a ritrovare un contatto positivo con il proprio corpo e la propria persona. Ecco perché imparare a rilassarci può essere un modo per prenderci cura del malessere derivante da alcune situazioni. Può essere uno strumento di prevenzione utile per aumentare il benessere fino a contrastare l'insorgenza di malattie legate allo stress. Dottor Gualersi, una piccola tecnica di rilassamento, un suggerimento pratico per ognuno di noi per affrontare questo cambio di stagione? C'è proprio bisogno di rinchiudersi in una stanza, isolarsi da tutto il resto del mondo per rilassarsi con una tecnica adeguata, oppure si può fare qualcosa anche di un po' più semplice? Ma molto semplicemente, anche perché le tecniche di rilassamento o di meditazione sono abbastanza complesse, bisogna allenarsi molto. Invece una cosa molto più semplice è il controllo del respiro. Il pranayama è l'arte proprio che insegna il controllo del respiro, e per avere subito un esempio è quello che quando siamo stressati e agitati respiriamo velocemente e in modo superficiale. Quando invece se riusciamo a calmare il respiro, ad attivare quel muscolo che si chiama diaframma, e comunque a respirare più profondamente, molto più lentamente, ecco che anche la mente si può calmare, rilassare, entrare in contatto e quasi con noi stessi, e quasi automaticamente sostanzialmente la testa si libera dai pensieri. Quindi è sufficiente controllare il respiro. Solo una piccola notazione: se vogliamo prendere visione, o comunque se vogliamo imparare, normalmente respiriamo a 12-15 atti respiratori al minuto, cioè in un minuto respiriamo 12 o 15 volte, facciamo 12-15 atti respiratori. Quando parlo di tecniche che controllano il respiro, dobbiamo arrivare a respirare in un minuto 4-5 volte. Se riusciamo a respirare 4-5 volte, aumentando sempre di più la fase di espirazione, quindi facendo durare di più il momento in cui butto fuori l'aria, ecco, questa è una tecnica velocissima, rapidissima, bastano 3-4 minuti per resettare la mente, lo spirito e dare subito un po' di slancio. Vedo già pronti Marco e Isotta a tagliare questo suo contributo, lo metteremo immediatamente sul nostro profilo, sui profili dei nostri social network, naturalmente, così incidiamo sulla pietra questo suggerimento preziosissimo. Andrei, prima di sentire, stiamo già finendo purtroppo, Gabriella da Milano, anche però dottor Gualersi, i rimedi naturali alle piante adattogene che agiscono per migliorare le capacità dell'organismo di adattamento allo stress e ai cambiamenti climatici o stagionali. Ce ne suggerisce qualcuna? Sì, diciamo che per rilassarci ci sono due piante sostanzialmente che hanno più evidenze scientifiche. Una è il tiglio, è facilmente reperibile in erboristeria, basta fare un infuso, e questo facilita appunto il rilassamento e la calma, e contribuisce a dare un buon riposo anche notturno. E l'altro, che per me è molto caro, nel senso non caro costoso ma caro in cui tengo molto, il biancospino, che è utile sia per le problematiche cardiovascolari, in quanto rallenta il battito cardiaco, anche un'emblanda azione antiaritmica, ma è un potente antistress, quindi lo consiglio in questo periodo anche per andare a letto insieme al figlio per riposare meglio. Chiarissimo. Gabriella da Milano, se ce la fa ad essere telegrafica riusciamo a risponderle. Buongiorno a tutti, buongiorno dottore. Grazie. Ma è molto grazie a voi per la trasmissione, molto interessante. Io vado al sodo, diciamo, perché dopo tutto quello che avete detto voi, purtroppo vi devo dire, io ho provato tecniche di rilassamento, la tecnica di respiro del dottore, aromaterapia. Mi trovo in una condizione quest'anno che col cambio di stagione della primavera io vado a letto e non riesco a dormire, ma sto sul divano magari prima o leggo un libro, cado, cioè mi cade il libro dalla mano, vado a letto e sto anche tranquilla a fare tutte quelle tecniche di respiro. Gabriella, devo, dottor Gualersi, in 5 secondi, poi magari facciamo a Gabriella una risposta più articolata. Cosa può fare? Con il libro sul divano si addormenta subito, va a letto, stack. Sicuramente non andare sul divano col libro, ma anticipare con piccoli sonnellini il sonno vero, quindi restare attiva fino prima di andare a letto, questo può aiutare tantissimo, perché spezzare il sonno è una delle condizioni peggiori per cui riposare bene durante la notte. Benissimo, quindi... dottor Gualersi, grazie molte per essere stato, non dico con noi, ma con me questa mattina. Buona giornata. Grazie per tutti i suoi suggerimenti. Ci ritroveremo certamente per ritornare ancora su questo sul modo migliore per affrontare questo arrivo dell'estate. Grazie a tutti, noi ci ritroviamo domani con Nicoletta Cuore Denari a partire dalle 11. A tutti buona giornata.